ombra sopra il beat, underground shit. Hey, Madman, sì. Tu che c'hai fondi lo diffondi, in fin dei conti godi. Io giro con i raddoppi oppure i doppi fondi vuoti. Di me la gente non sa niente se ti volti noti. Che mi chiamano emergente, rappo con i volti noti. Ma sto tra gli stolti idioti, soldi pochi, conti vuoti. Mi sa che non c'è più rime, zio, comprati un walkie talkie. Se sei un cadetto, provetto, fighetto che conta sacchi. Mo ti affetto, lo prometto, ti metto nel portapacchi. Io supporto l'underground, tu supporta chi si districa. Io ti porto nel sound che ti porta in crisi mistiche. Beh, sul tempo ti apro tanto, ti ho diretto al camposanto. Flow talento, sacrosanto, base missilistica. Lo sai che rappo finché non finisco la saliva. E che non smetto finché non finisco la sativa. Fra, tu pensi di essere Cristo, per i tuoi pezzi non prendere un fischio. La roba che poi sento nel tuo disco è la sativa. Oh, c'hai merda la sativa, un cazzo di ossimoro. Vai, Blu Virus 6-6, Blu Virus 2010, è la merda. Ok, oh, non siamo eccentrici dei credici. Qui è solo merda e sclero. Sputo 16 tra medici, macchine, letti e flebo. Trascino 4 vergini da casa al cimitero. Dopo sfilo tutti i tendini perché sarò sincero. Meglio prevenire che curare in ogni situazione. A fine aprile lo stivale, noia e decomposizione. La gloria ormai l'ho persa, freccette se mo' attraverso la mente. Ha visto un rapper e mi passa l'estintore. Sono il peggio per le figlie mentre affronto l'agonia. Deglutisco 2 pastiglie, combatto l'ipocondria. Leggendo le frequenze per rispetto della scia di degrado che scommetto, entrerebbe anche in casa mia. Chi mi invia per spingere il rap del suo protettore? Mi trova preso bene se nei pressi di un burrone. Sai, non m'autocelebro mai, genero guerra, ripetizione. Sfondo a Kai, ma in fondo non sarò mai un campione. Non sarò mai un campione, ma la merda che ti do è sempre la più vera. E questa è la terza, ok? 2010. Ehi, ehi, vorrei fare una cernita, sì, di chi copia l'America, sì, con l'etica ipocrita di chi mendica una rendita. Io in questa scena settica ti porto merda autentica. Col doppio dei tuoi contenuti, il quadruplo di tecnica. L'odio in ogni cellula, sì, cresce e si perpetua in metamorfosi incompleta come fosse una libellula. Io che sono diventato ateo dopo essere nato in un posto dimenticato da Dio. Però non sono un grande, sono uno sbaglio. Nel buio nocivo ci vivo, poi ci scrivo corpora, sperando che il talento mi spalacchi uno spiraglio. Perché quando non mi folgora piango fiumi di polvere. La gente mi asseconda e spera che sta merda si diffonda come un'onda nera. Mentre un altro Don Giovanni gira col Carrera. Porto avanti 21 anni di una non carriera.